È nata dalla necessità prima di tutto di rispondere all'urgenza causata dallo scoppio della guerra in Ucraina, che è stata un'urgenza che, diversamente da altri conflitti che ci sono stati in passato, non ha prodotto una mobilitazione ampia e come quella che abbiamo visto per esempio di fronte alla guerra in Afghanistan. Trovare il modo di affrontare questa guerra, di comprenderla, di capire in che modo influisce sulle nostre lotte è stato il centro di un'assemblea che abbiamo organizzato a gennaio, il 15 gennaio, Convergix, Parole Pratiche in Movimento a Bologna, un'assemblea molto molto partecipata, ci sono state centinaia di persone provenienti da diverse città e questo foglio nasce appunto dall'idea di dare una continuità a quella discussione alla quale hanno contribuito compagni e compagni di non soltanto di Bologna, Milano, Torino, Pisa, Napoli, Brescia, insomma da diversi contesti, da diverse esperienze abbiamo pensato di scrivere e discutere insieme. Soprattutto questo foglio nasce da una discussione condivisa per creare uno spazio di discussione, che parte proprio dalla constatazione che la guerra ha prodotto dei blocchi della discussione interna al movimento, dei blocchi dell'iniziativa e che riuscire ad affrontare la guerra, riuscire a dare alla pace una prospettiva politica di lotta richiedesse per l'appunto di sfidare questi blocchi. Quali sono i temi principali di questo documento? Oltre a appunto un'introduzione condivisa contiene tre diversi interventi che corrispondono a tre dei blocchi che abbiamo individuato nella discussione collettiva. Uno riguarda in un certo senso il blocco dell'approccio che abbiamo quasi automaticamente in un certo senso utilizzato per affrontare la questione della guerra, che è quello dell'approccio geopolitico, diciamo così. Ci siamo trovati, evidentemente ci troviamo di fronte a una situazione che sta ridisegnando le politiche internazionali e transnazionali, soltanto che vedere questa riconfigurazione soltanto dal punto di vista degli stati, di che cosa stanno facendo, ci mette in una condizione in un certo senso di non poter comprendere, di non poter avere strumenti per capire come noi nelle nostre lotte per l'appunto affrontiamo la questione della guerra in Ucraina e dei suoi effetti globali. Per esempio una delle categorie che è stata utilizzata è stata quella di imperialismo per discutere la guerra, soltanto che anche su questo non ci sono stati accordi, è l'imperialismo statunitense, è l'imperialismo russo, ma c'è anche l'imperialismo cinese e quale nuovo ordine produrrà questa guerra? Ecco, in un certo senso la discussione ha cercato di spiazzare questo campo in due sensi, da una parte l'idea che non è detto che si produca un nuovo ordine, cioè se l'imperialismo presume sia un controllo politico statale sui processi di valorizzazione del capitale, ecco più che altro noi ci troviamo di fronte a una condizione di disordine che non nasce con la guerra, che la guerra cerca di risolvere in qualche modo, ma dentro a questo disordine ci sono dei movimenti, movimenti soggettivi, movimenti sociali di donne e lavoratrici, lavoratori, migranti, persone LGBTQ che stanno subendo gli effetti di questa guerra sia sui fronti in cui si combatte, sia in ogni parte del mondo. E questa è la prospettiva che a noi interessa affrontare. L'altra questione riguarda in un certo senso il blocco delle alternative impossibili con la NATO o con Putin, pro o contro l'invio di armi. Evidente, Putin ha invaso l'Ucraina, la NATO sta producendo con i nuovi strategic concept delle politiche espansionistiche che sono significative, senz'altro, però da una parte e dall'altra i blocchi sono rotti e fratturati, non soltanto dalle condizioni dei soggetti che vivono al loro interno, ma anche dal fatto che dietro a queste alternative in realtà ci sono delle politiche che sono politiche industriali, che sono politiche ecologiche, che riguardano le nostre vite e abbiamo il problema di metterle costantemente in connessione. Quindi politiche industriali, ecologiche e militarizzazione sono delle cose che vengono lette insieme in questo foglio ed è il problema è guardare tutto quello che sta succedendo a partire dalle condizioni materiali sulle quali hanno effetti. E il terzo blocco è quello che vede la contrapposizione di locale e transnazionale, che ci sembra una contrapposizione sempre più impossibile, esattamente perché dietro le politiche militari ci sono politiche industriali, ci sono politiche di transizione ecologica orientate all'accumulazione e allo sfruttamento. Allora il problema è quello di vedere dentro i processi locali queste battaglie transnazionali, di costruire legami e di farlo a partire da una prospettiva che è quella di costruire una politica di pace che non sia affidata agli stati, alle transizioni diplomatiche, ma che sia in capo ai soggetti che si stanno rifiutando di pagare questa guerra, i cui effetti non sono solo appunto sui territori in cui si combatte, ma nelle bollette e nelle trasformazioni che stiamo vivendo sulla nostra pelle, così come l'antimilitarismo è da portare fuori dai territori perché è diventato parte integrante delle politiche di transizione di cui subiremo gli effetti nei prossimi anni. E il tentativo è appunto quello di aprire una discussione, non tanto di offrire risposte, ma un cambiamento di prospettiva che consolidi uno spazio di confronto nella convinzione che non si tratti soltanto di mettere tutte le lotte insieme contro la guerra, ma di fare dell'opposizione alla guerra una possibilità di rafforzare le lotte dentro le quali noi tutte e tutti siamo coinvolti. Nel documento affermate che la vostra pace non è assenza di conflitto né pacificazione sociale. Ci spieghi meglio questo concetto? Sì, non è assenza di conflitto perché è evidente che abbiamo il problema della fine della guerra in Ucraina, perché i suoi effetti mortali li abbiamo davanti tutti i giorni, e questo è certamente centrale. E soltanto che il problema è che la guerra in Ucraina sta creando anche una condizione nella quale il conflitto è sempre più difficile. Faccio soltanto un esempio: di fronte alle lotte enormi che in Francia ci sono state contro la riforma delle pensioni, la risposta di Macron è stata una risposta sulla necessità. Lo dobbiamo fare perché la condizione di crisi, che è una crisi segnata prima dalla pandemia, poi dalla guerra evidentemente, è qualcosa che reclama imperativamente l'affermazione di politiche neoliberali. Sembra che l'unica alternativa possibile sia quella di accettare quello che sta succedendo. Oppure, non lo so, l'invio d'armi. Di fronte alla resistenza non possiamo che accettare una crescente militarizzazione, come se l'unico modo per opporsi alla guerra fosse accettare la guerra. È una situazione paradossale che ci paralizza o rischia di paralizzarci, quando per esempio ci sono delle forme di resistenza che non sono soltanto armate, che rischiano di diventare invisibili. Penso a quella delle donne che stanno offrendo solidarietà alle profughe ucraine e per poter abortire in Polonia, visto che lo stupro di guerra è una realtà quotidiana. Allora, se guardiamo questa cosa da un'altra prospettiva, noi abbiamo la possibilità di pensare alla pace come qualcosa che pretende le nostre lotte, dentro la quale è necessario lottare, perché non è soltanto la fine del conflitto, ma la fine del conflitto va insieme a lottare contro i rapporti di dominio, di oppressione e di sfruttamento che attraverso questa guerra si stanno affermando, non solo in Ucraina e in Russia, ma per tutte e tutti noi.